Taccuino di viaggio. Collega l'Europa all'Asia, le pianure ucraine al Mediterraneo, l'Oriente all'Occidente. È la Turchia, il ponte naturale tra mondi diversi che qui hanno trovato un equilibrio, fondendo ciascuno le proprie tradizioni. Dai califfati ottomani alla dinastia bizantina, dai greci antichi ai mercanti arabi, tutti raccolti negli anni 20 del Novecento in uno stato laico, moderno e occidentalizzato, dal grande padre della Turchia, Ataturk. E proprio dall'incontro di popoli, mare, montagne, religioni e cibi deriva il fascino di questa nazione e dei suoi abitanti, uniti dal motto «Felice chi può dirsi turco». Cose da vedere. Istanbul è conosciuta anche con i suoi antichi nomi, Bisanzio e Costantinopoli, e rappresenta bene la varietà culturale turca. Una storia millenaria è stratificata nelle vie della città, a partire da Piazza Sultanahmet, dove si fronteggiano due degli edifici più importanti dell'intera Turchia. Il primo è la Moschea Blu, con minareti che competono in bellezza con la Moschea della Mecca, soprattutto al tramonto, quando la facciata è inondata dal sole. Dall'altro lato della piazza sorge invece Santa Sofia, prima chiesa bizantina e dal XV secolo moschea. Un recente restauro ha riportato alla luce i luminosi mosaici bizantini, pensati per riprodurre sulla terra la luce del paradiso. La città sul Bosforo non vive solo di storia, ma anche del commercio quotidiano dei suoi quasi 13 milioni di abitanti. A Istanbul i bazar sono molti, da quello della cavalleria specializzato in tappeti a quello delle spezie o dei libri. Ma il mercato principale è certamente il Gran Bazar, un intero quartiere coperto con i suoi vicoli, gioielli, tessuti, tappeti e oggetti antichi. Sul retro dei negozi ci sono gli han, i laboratori, dove contrattare sul prezzo non è solo una leggenda metropolitana. Anche oggi Istanbul conferma la sua anima commerciale, organizzando per tutto il mese di giugno uno shopping fest nei principali centri commerciali moderni della città. Cose da fare. Dai mori di Istanbul partono le escursioni per raggiungere la sponda asiatica della città e i parchi e i palazzi sul Bosforo. Per chi cerca il relax ci sono gli hammam, i bagni turchi nati come servizio di purificazione religiosa, che presto si sono trasformati in luogo di socializzazione e affari. Come si lava, come si fa un massaggio e dare sollievo alla carne per arrivare a dare sollievo allo spirito. Hanno reparti separati per uomini e donne, un servizio completo prevede la sosta nella stanza calda, intervallata da massaggi e insaponature. Al centro della Turchia c'è Ankara, la capitale, dove il Museo delle Civiltà Anatoliche racconta le mille tradizioni della storia del paese. Poco più a est si estende la Cappadocia, dove il tempo ha eroso il tufo in paesaggi rocciosi a forma di fungo alti fino a 40 metri, chiamati Camini delle Fate. Anche l'uomo ha contribuito a modificare il territorio, scavando la morbida pietra della zona. La Valle di Goreme, un museo a cielo aperto patrimonio dell'UNESCO, che ospita decine di cappelle scavate nel tufo da monaci bizantini. Le chiese tutte affrescate si alternano alle celle ed è possibile approfittare di un tour a dorso di cammello. Ma l'attrazione più stupefacente sono le città sotterranee di Kaimakli e Derinkuyu, veri e propri labirinti scavati quasi 3.000 anni fa per difendersi dalle incursioni nemiche sotto villaggi esistenti, con depositi di grano, stalle, abitazioni e luoghi comuni per la vita degli abitanti. La foto. Le coste dell'Egeo offrono spiagge, vita notturna e gite in barca lungo le penisole di Dacta e Bodrum. Qui ci sono anche le rovine delle più importanti città greche antiche, Troia, Efeso, Alicarnasso e Pergamo. Scendendo verso sud si raggiunge la costa turchese. Nei pressi del villaggio di Dalian c'è la spiaggia delle tartarughe. 70 km più a est si stende la sinuosa laguna di sabbia bianca di Oludeniz. Da qui è possibile percorrere la Via Licia, un trekking di più giorni che si sviluppa lungo la catena del Tauro, per arrivare fino a Antalya. Nei suoi dintorni le spiagge di Kemer e Belek sono tra le più belle località marine del paese. Ma ora invertiamo la rotta e puntiamo verso ovest, perché la prossima settimana saremo dall'altra parte dell'Europa, a Lisbona. Un saluto da Maria Chiara Grandis.